Martina e oltre 500.000 di aziende e professionisti usano la fatturazione elettronica di Aruba perché è semplice, è completa e conveniente da una nuova intuitiva app. Fatturazione elettronica di Aruba. Chi l'ha scelta non la lascia più. Vai su aruba.it. Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone. Buongiorno a voi e benvenuti. Oggi ho pensato di tornare con un pochino più di calma al premio Nobel per la medicina che è stato assegnato lunedì di questa settimana ad un trio di ricercatori di primissimo livello, Harvey Halter, Michael Oughton e Charlie Rice, che hanno scoperto il virus che causa l'epatite C. Grazie al loro lavoro, al lavoro dei loro gruppi, è stato possibile identificare una delle cause dell'epatite, che è una grave infiammazione del fegato, dopo che erano stati individuati, scovati i virus responsabili dell'epatite A e dell'epatite B. Infatti, fino a quando non fu scoperto il virus, l'epatite C veniva chiamata non A e non B. Ma allora, un grande risultato frutto di un grande impegno, di un bellissimo lavoro di ricerca. Dopo, grazie alla scoperta di questo virus, la ricerca è andata avanti e sono stati poi disponibili dei farmaci per trattare, salvando la vita, milioni di pazienti. Ma oggi vorrei un po' ripercorrere la storia di questo successo e allora ho chiesto l'aiuto di un grande esperto, il dottor Stefano Fagioli, che è in linea con noi ed è patologo e direttore del Dipartimento di Medicina all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Dottor Fagioli, grazie. Ci racconta un po' il dietro le quinte di questa scoperta? Buongiorno Nicoletta, buongiorno a tutti. Ma questa è una grande storia che risale ancora alla fine degli anni 70, inizio anni 80, quando alcuni di questi ricercatori avevano intuito che dietro a certe forme di epatite c'era verosimilmente un'infezione virale, ma non riuscivano a individuarla e per anni l'abbiamo chiamata non A, non B, proprio perché non era né il virus A né il virus B. Finalmente, dopo molti anni di ricerca, nel 1988 è stato individuato questo virus, gli è stato dato il nome di virus dell'epatite C e si è cominciato a collegare l'evoluzione di malattia e si è visto che è un virus che può portare a gravissimi danni nel fegato e causare anche la mortalità di molti pazienti. Si stima che ci siano circa 70 milioni di persone con questo virus nel mondo. Un altro grande cambio di passo è stato alla fine degli anni 90, inizio degli anni 2000, quando dei gruppi di ricercatori hanno inventato una specie di virus artificiale, il cosiddetto replicone, che permette di testare numerosissimi farmaci in vitro con rapidità, e questo ha dato la stura all'uscita di una quantità di farmaci che al momento attuale, dal 2013, sono assolutamente efficaci, oltre il 95% di efficacia, tollerati in modo straordinario e che permettono di affrontare un programma di eliminazione di questo virus, che è quello che il WHO ha messo come target per il 2030. Quindi è stata una grande cavalcata, sicuramente importante, che ha comportato almeno 30 o 35 anni di intense attività e intensi studi. 30-35 anni, un lasso di tempo importante che ha portato poi all'eradicazione del virus, dottor Fagioli. Oggi il virus dell'epatite C può essere eradicato, una parola che noi sentiamo spesso, che ha un significato preciso e che è un grande successo. Assolutamente, quando parliamo della singola persona, il trattamento in 8 al massimo 12 settimane a base di pastiglie, quindi facile, semplice, super efficace, permette di eliminare dal corpo del singolo paziente questo virus. Dobbiamo avere un'accortezza, non ritornerà l'infezione che quel paziente aveva, ma quel paziente resterà esposto alla possibilità di acquisire nuovamente il virus se va incontro agli stessi fattori di rischio. Che sono, dottor Fagioli? Al giorno d'oggi sono soprattutto il contatto con sangue infetto, con tutte le modalità che, in cui questo può avvenire. E quindi è chiaro che queste attenzioni devono essere mantenute. Tra l'altro, dottor Fagioli, queste infiammazioni, l'epatite possiamo definirla così, ci sono epatite più o meno gravi, e l'epatite C, come lei ha detto, può portare anche a tumori, a cirrosi, sono spesso insidiose perché non comportano subito sintomi rilevanti, che diventano invece chiari ed evidenti solo quando si sviluppano le complicazioni. Dottor Fagioli, è così? Quindi si può essere ammalati di epatite C senza saperlo? È purtroppo verissimo, nel senso che si può essere infettati da questo virus e non accorgersene per tempi lunghissimi. È un virus che da solo può causare un danno irreversibile nel fegato, ma in tempi che possono arrivare a 30 o 40 anni. Se è accompagnato da dei, chiamiamoli, cattivi compagni di viaggio, un consumo di alcolici, altre malattie, una sindrome metabolica, il diabete, allora può avere un'accelerazione in termini di danno che può causare. Ma la cosa più rilevante è che se uno aspetta i sintomi per capire se deve combattere il virus, in realtà è quasi sempre una malattia molto avanzata. Ecco perché lo screening e l'identificazione del sommerso, cioè di quei pazienti che hanno l'infezione ma non lo sanno, è l'unica strada per impedire che la malattia possa evolvere, perché se noi li identifichiamo abbiamo oltre il 96-98% di probabilità di eradicarlo da ogni singolo paziente, e quindi è un'occasione straordinaria. Ecco, e a proposito di occasioni, dottor Fagioli, di occasioni di screening, c'è una bella iniziativa che vogliamo raccontare alle amiche e agli amici che ci stanno seguendo? Sì, trovo una bellissima iniziativa dal punto di vista proprio della comunicazione. Si sta tenendo in Italia in questo periodo, è già stato a Roma, a Salerno, a Napoli, sarà a Milano e a Bergamo la prossima settimana. Si farà un roadshow, un evento in piazza dove con un'unità mobile si farà lo screening congiunto sia per il coronavirus che per l'epatite C. E questo è un bel modello per portare all'attenzione che l'identificare i casi in condizioni di infezione prima che diventino malattia è sicuramente una delle migliori strategie per il controllo. Dottor Fagioli, che cosa possiamo imparare, o meglio, che cosa ci insegna l'HCV di utile per il SARS-CoV-2? Ma ci insegna la prudenza e la pazienza, che ovviamente sono cose che mancano in momenti di crisi come quello che abbiamo vissuto e stiamo vivendo. Ci sono voluti circa 30-35 anni perché con il virus C, dalla sua identificazione, fossimo in grado di produrre dei risultati straordinari. E ora i tempi sono cambiati e probabilmente non ci vorranno tempi così lunghi, ma certamente pensare di avere in settimane o mesi la risposta alla gestione, al trattamento o addirittura a un vaccino per un virus nuovo che ha fatto un salto di specie, prima colpiva gli animali e poi ha trovato terreno vergine nella popolazione umana, è molto difficile. Ed ecco perché il ruolo della prevenzione e dell'attenzione da parte del circolo di cittadini diventa cruciale in questa fase, perché l'insegnamento è che la fretta e l'imprudenza non fanno parte della ricerca efficace. Grazie dottor Fagioli per essere stato con noi, le auguro una buona giornata. Buongiorno a tutti, ciao Nicoletta. Bene, per oggi è tutto, ma prima di salutarvi vi ricordo l'iniziativa in collaborazione con Engage Minds Hub, il centro di ricerca dell'Università Cattolica, con cui ci stiamo allenando per affrontare, attrezzati adeguatamente, questa nuova quotidianità. Ci sono degli esercizi, la professoressa Gwendalina Graffini, responsabile del centro, Andrea Vitali, ci aiutano questa settimana a lavorare sulle parole.